attenzione sempre più preoccupata Rosy Bindi. Secondo una nuova teoria scientifica, confermata anche da Piero Angela, a provocare l'estinzione dei dinosauri è stata una fortissima pioggia di primarie.